TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La Camera approva in seconda lettura la modifica dello Statuto della Regione che contiene ora l'istituzione delle province e enti intermedi soppressi dopo un iter analogo nel 2016. Per il via libera definitivo manca ancora la seconda lettura del Senato. I carabinieri di Pordenone hanno arrestato 4 cittadini albanesi sospettati di essere i responsabili di almeno 13 furti avvenuti nel nord-est nel 2023. Nel porto di Trieste è effettuato il primo rifornimento di gas naturale liquefatto da nave gasiera porta container, un'operazione possibile grazie anche all'ordinanza della Capitaneria di Porto che ha vigilato sul processo di bunkeraggio. Una studentessa triestina del liceo Presciren ha letto la lettera al Papa durante il giubileo del mondo educativo. Le meduse hanno memoria pur essendo senza cervello, a questa conclusione è giunto uno studio delle università di Trieste e Padova, studio che può aiutare a comprendere l'evoluzione dei sistemi nervosi e della cognizione. Lutto nel mondo dei motori per la morte a 84 anni di Andrea De Adamic, nato a Trieste, disputò 5 stagioni in Formula 1. Buongiorno da Eva Ciucca e Nada Cioc. Il ripristino delle province quindi sempre più vicino. La Camera, con 228 voti a favore, 78 contrari e 6 astenuti, ha approvato le modifiche alla legge costituzionale sullo statuto speciale della regione per introdurre nuovamente gli enti intermedi. Si tratta della seconda lettura alla Camera. Ora il testo dovrà essere votato anche dal Senato per la seconda volta. Per Italia Viva, che si è astenuta, la riforma risponde a un deficit di democrazia, ma allora perché, ha chiesto Roberto Giachetti, non estenderla a tutto il paese? Per noi moderati, che vota sì, non è il revival delle vecchie province. Per Alessandro Colucci, i nuovi enti saranno meglio finanziati e più efficaci. Voto favorevole anche da Alleanza Verdi Sinistra. Quanto si sta facendo per il Friuli Venezia Giulia va ripetuto per tutte le altre regioni. Le province sono un'istituzione liquidata troppo frettolosamente, ha detto Filiberto Zaratti. Il sì di Azione nelle parole di Ettore Rosato. Il Friuli Venezia Giulia è un esempio di buon governo a prescindere da chi lo governi, quindi è sbagliato opporsi alle province che vanno reintrodotte in tutta Italia, obiettivo sul quale vi siete impegnati dinanzi agli elettori. Contrario il Movimento 5 Stelle, la reintroduzione delle province porta vantaggi alla classe politica, non ai cittadini, che non pare l'abbiano chiesta in una regione già piccola e soggetta a un pesante calo demografico, ha detto Carmela Auriemma. Da Isabella De Monte il sì di Forza Italia. Le province funzionavano, rispondevano alle esigenze e rispondono a un'esigenza di rappresentatività a cui ci richiama anche il Consiglio d'Europa. Voto favorevole della Lega. Restituire le province è un atto di giustizia istituzionale, ha detto Graziano Pizzimenti. La sinistra ha paura della democrazia, del voto libero. Toglierle fu una scelta ideologica, miope e centralista. Ad illustrare il no del PD, Deborah Serracchiani, considerata la madre della riforma, ha ricordato che invece fu avviata dal centrodestra che governava la regione. Noi poi la portammo a termine. Oggi non avete neppure il coraggio di chiamarle province nella riforma e non dite che saranno finanziate con nuove tasse. Nessun onere aggiuntivo per lo Stato, ha invece garantito Emanuele Loperfido, Fratelli d'Italia, voto favorevole. Le province furono sacrificate sulla piazza dell'antipolitica. Eliminarle non ha prodotto né risparmi né efficienza. Voto finale, 6 astenuti, 228 favorevoli, 78 contrari. Un passo avanti importante per il Friuli Venezia Giulia. I territori hanno bisogno di istituzioni più vicine ai cittadini. Il commento della sacilese vice ministra all'ambiente Vannia Gava. La parola passerà al Senato ai primi del 2026. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. E questo pomeriggio è all'ordine del giorno nella Camera dei Deputati l'audizione di Marco Consalvo, presidente indicato del sistema nell'autorità portuale dell'Adriatico orientale. Effettuata nel porto di Trieste la prima operazione di rifornimento di gas naturale liquefatto a una nave portacontainer in Italia, in particolare effettuare il rifornimento la gasiera Ravenna Knutsen del gruppo Edison. L'operazione è stata resa possibile grazie al nuovo regolamento per il bunkeraggio ship to ship approvato dalla Capitaneria di Porto di Trieste. Il nuovo regolamento consente inoltre l'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio in qualsiasi fascia oraria, anche durante la notte. notte, ampliando così le possibilità operative, favorendo la competitività del porto di Trieste nel settore dei carburanti alternativi. L'azione di controllo e monitoraggio svolta dalla Capitaneria di Porto ha assicurato lo svolgimento dell'operazione in condizioni di massima sicurezza rispetto ambientale, consolidando il ruolo dell'autorità marittima come punto di riferimento nella gestione delle nuove tecnologie energetiche in ambito portuale. I medici di famiglia aderenti al sindacato SNAMI oggi sono in sciopero. Secondo il vice segretario del sindacato, ha aderito il 45% degli iscritti. Ambulatorio chiuso perché la dottoressa aderisce allo sciopero nazionale. Con un cartello si avvisano i pazienti che oggi non ci saranno visite se non urgenti. In un altro studio medico di Udine l'avviso viene coperto al mattino perché uno dei due medici non sciopera, mentre incrocerà le braccia la collega in turno al pomeriggio. Per 24 ore il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani ha proclamato la mobilitazione. Stop anche per le guardie mediche, servizi territoriali e medicina penitenziaria. Raggiungiamo il dottor Claudio Nardo, vicepresidente regionale SNAMI, mentre in viaggio per la manifestazione nazionale di Roma. Tra le ragioni dello sciopero deciso dal Congresso Nazionale del Sindacato, il rifiuto del cosiddetto modello del ruolo unico. La tendenza è quella di avere un medico sempre a disposizione che risolve i problemi, ma non che segua in maniera corretta il paziente. Il medico che fa la notte, durante la notte, può vedere diversi pazienti, poi scende giù dalla guardia, deve aprire l'ambulatorio per seguire il vecchietto. Ma non è che segue solo il vecchietto, segue anche tutti i pazienti di quella AFT che hanno bisogno di qualcosa. Il medico continuerà ad avere i suoi 1500 pazienti, talvolta 1800, ma non solo. Più tutti quanti quelli che hanno bisogno in quel momento. In altre parole, potrebbe succedere che dalla centrale o altro vengano mandati dei pazienti che chiedono aiuto in quello stesso identico momento. È ritenuta indispensabile anche l'istituzione della specializzazione universitaria in medicina generale, equiparata alle altre discipline mediche. Troppo poco attrattivi al momento i corsi regionali. Su 80 che hanno manifestato l'idea di partecipare al corso, ne abbiamo soltanto 31 iscritti. In giornata le prime stime provvisorie sull'adesione, solo domani si potrà capire quale sarà stato l'impatto dello sciopero sui pronto soccorso. Abbiamo notizie che altri colleghi non sindacalizzati e anche di altri sindacati hanno deciso di partecipare a questo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo e il cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 15 gradi, Udine 17, Pordenone e Gorizia 16, Piancavallo 14, Forni di Sopra 13 gradi e mezzo, Tolmezzo 12, Sappada 11 gradi e mezzo, Tarvisio 8 gradi, Sull'Ussari e sullo Zoncolan 11 gradi, Agrado e Lignano 14 gradi. Le previsioni: continua il tempo stabile, nel pomeriggio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per velature. Arrestata dai carabinieri di Pordenone una banda di ladri che svaligiava le abitazioni tra il tutto il nord-est. Secondo la procura che ha coordinato le indagini, 4 cittadini albanesi sarebbero responsabili di almeno 13 furti avvenuti nel 2023. Il modus operandi era sempre lo stesso: arrivavano a bordo di auto di grossa cilindrata in 3 o 4. L'autista restava a fare da palo, mentre gli altri, attrezzati con cacciaviti e altri ferri del mestiere, entravano agilmente nelle case, solitamente tra le 17 e le 20, svaligiandole in pochi minuti. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno individuato 4 soggetti, tutti albanesi, ritenuti responsabili di 13 furti in abitazione commessi tra febbraio e marzo 2023 in 5 province tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. 2 sono stati arrestati, mentre gli altri sono ancora ricercati, fuggiti forse all'estero. Il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Pordenone, Claudio Delle Porini. Dalle abitazioni rubavano un po' di tutto, principalmente denaro contante, gioielli, in alcuni casi anche capi di abbigliamento firmati di valore, borsette, cappotti, giacconi. In un paio di casi hanno rubato anche delle armi che erano detenute regolarmente dalle vittime. Non disdegnavano addirittura di rubare i salvadanai dei bambini dalle case. I 4, senza fissa dimora, facevano base nel Milanese. Alla banda vengono contestati anche i reati di riciclaggio e ricettazione per le auto rubate e resistenza a pubblico ufficiale. In Friuli i colpi risultano a San Vito, Sacile, Pasiano e Fiume Veneto, La Tisana, Artegna e Codroipo. Per il Veneto a Cinto Caomaggiore, ancora il tenente colonnello Delle Porini. Purtroppo ancora riscontriamo furti in cui I ladri riescono ad accedere in casa da porte lasciate aperte o da finestre lasciate aperte. Sono aiuti che secondo me non vanno assolutamente dati. Un'altra buona norma sarebbe dotarsi di un impianto di videosorveglianza con telecamere o di allarme. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel comune di Corno di Rosazzo, il nucleo antibracconaggio del Corpo Forestale Regionale, coordinato dalla Procura del Tribunale di Udine, ha concluso l'indagine su un bracconiere che attirava cinghiali con del cibo al fine di ucciderli sparando dall'abitazione di residenza. Le indagini e gli appostamenti, che hanno permesso di documentare anche la leggerezza con cui l'uomo utilizzava un fucile sparando nei pressi dell'abitazione e nelle vicinanze di una strada limitrofa, sono durate diversi mesi. Durante la perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria, l'uomo sono stati sequestrati anche un fucile modificato e privo di matricola, non denunciato. Sono state contestate violazioni connesse al reato di foraggiamento, oltre a quelle amministrative per detenzione di reti da uccellagione e detenzione non idonea di cani in recinti di ridotte dimensioni. Si parlerà più di attualità che di storia. Il nuovo incontro nell'ambito della rassegna Una storia di bugie, le fake news nell'età contemporanea, organizzata dall'IRSREC, l'Istituto Regionale per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l'Università di Trieste. Manipolazione e interpretazione dei dati in politica è il tema dell'appuntamento al Museo Civico Sartorio di Trieste alle 18 con il professor Giuseppe Ieraci, che partirà dalla storia del pollo di Trilussa. Tutti conoscono naturalmente la storiella di Trilussa, del poeta romanesco, il quale narra appunto del fatto secondo il quale tu mangi un pollo ma sei in due e poi risulta che invece se ne hai mangiato metà a testa. Questo per dire che nella narrazione sia delle scienze sociali che della storia si usano i dati, si elaborano i dati e li si interpretano. Questo ci conduce al tema centrale del mio discorrere, che sarà quello della manipolazione. Ci può dare qualche esempio? Pensiamo al caso della guerra contro il regime di Saddam Hussein, quando le potenze occidentali parlarono a Iosa della famosa canna fumante trovata, cioè delle armi segrete usate da Saddam Hussein, e dopodiché l'allora presidente, primo ministro inglese Tony Blair dovette confessare che era stato un atto di manipolazione. Questo è un classico esempio. Un altro esempio, molte testimonianze di gerarchi nazisti che avevano vissuto gli ultimi giorni con Hitler nel bunker o erano a contatto con lui, raccontano che Hitler aveva una capacità affabulatoria con i dati, cioè lui sparava dati a mitraglia, scusi l'espressione un po' guerresca, insomma, e di fronte ai numeri i generali si detivano perché non sapevano cosa contraddire. Il numero non è contraddicibile, insomma, è un numero, una cosa che sembra reale. E qualche esempio più recente? C'era un dato in cui si diceva che il peso fiscale è tutto sulle spalle della classe media. Viva Dio, è certo che è così, ma il problema è che i contribuenti che possiamo classificare come classe media sono circa il 97-98% della popolazione italiana, quindi è evidente che il peso fiscale cade su questa gente. Una studentessa triestina del liceo Prešíren, partecipando al giubileo del mondo educativo, è stata scelta per leggere la lettera al Papa, scritta assieme ad altri 300 studenti. Sentiamo. Santo Padre, siamo qui oggi per accogliere e rilanciare il suo invito, costruire insieme un'alleanza educativa globale. Questa è Petra Strain, studentessa del liceo Prešíren di Trieste, che partecipando assieme ad altri 3 compagni del liceo sloveno al giubileo dell'educazione è stata scelta per leggere la lettera al Papa davanti a 8.000 giovani. Una lettura alla quale Leone XIV ha assistito per motivi di sicurezza in un'altra stanza. La lettera è una sintesi del lavoro di squadra durato alcuni giorni al quale hanno partecipato circa 300 studenti. I contenuti di questa lettera erano molti, perché sono stati proprio ricuciti da un direttore, ovvero quello che ha diretto tutta l'operazione dialoghi di questo giubileo, dove ci siamo raggruppati 300-400 studenti, abbiamo scritto di tutti i nostri pensieri sulla scuola, sull'ambiente, sui problemi del nostro tempo. Prima di arrivare alla lettera c'è stato un momento, diciamo, che è durato alcune giornate di dialogo con altri 300 studenti, dove avete riflettuto soprattutto sul vostro ruolo nel futuro. Che cosa ne è emerso? Un'esperienza veramente che mi ha resa così grata di aver almeno provato ad andare a Roma, perché non ne sapevo niente prima, non sapevo cosa mi aspettava. Come vedi tu il futuro della tua generazione? Se prima pensavo che non avessimo un futuro o comunque che non lo credevo molto prosperoso, adesso ho visto la realtà e ho riconosciuto che è così vario, è così bello e possiamo veramente insieme creare qualcosa di fantastico. E ora parliamo di scienza. Le meduse, seppur considerate senza cervello, pare siano curiose e abbiano memoria. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste e dell'Università di Padova ha osservato comportamenti sorprendenti nelle meduse della specie Aurelia, comunemente nota come medusa quadrifoglio. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Behavioral and Brain Sciences. Questi animali sono considerati senza cervello. Il loro sistema nervoso è organizzato in modo radiale, senza un centro di comando, spiega Cinzia Chiandetti, professoressa di neuroscienze cognitive al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste. Trovare in loro segnali di memoria e attrazione per le novità è un'importante chiave per comprendere l'evoluzione dei sistemi nervosi e della cognizione stessa. Nel dettaglio, i ricercatori hanno osservato il comportamento di giovani meduse inserite singolarmente in una vasca rettangolare. A ciascun animale è stato presentato un oggetto che ha suscitato un'immediata reazione. Le meduse hanno abbandonato la parte vuota della vasca per dirigersi verso la novità. Dopo un intervallo di un minuto è stato inserito un secondo oggetto assieme al primo. In quella circostanza le meduse hanno mostrato una chiara preferenza per quest'ultimo. Questo comportamento, che gli esperti chiamano neofilia, indica che le meduse hanno memoria del primo oggetto e sono attratte da quello nuovo. Tra le 10 neolaureate in fisica teorica che hanno ricevuto il premio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Milla Baldo Ceolin c'è anche Elisabeth Kepler, dottoranda in astrofisica e cosmologia presso la SISSA di Trieste. Il suo interesse di ricerca principale sono buchi neri massivi e supermassivi che distruggono stelle orbitanti in eventi chiamati di disgregazione mareale. Durante la sua tesi di laurea magistrale conseguita a Trieste si è occupata di controparti gravitazionali nella disgregazione mareale, facendo stime di osservabilità con alcuni rilevatori di prossimità di prossima generazione. Sarà dedicato alle nuove terapie delle malattie genetiche della retina l'incontro dal titolo La luce ritrovata, organizzato dall'Università di Trieste e da ABC Bambini Chirurgici in occasione del ventennale della sua fondazione. Ospite d'eccezione al Modernist Bistro a Trieste alle 17.30 la professoressa Francesca Simonelli, uno dei massimi esperti a livello internazionale sullo studio e la cura delle distrofie retiniche ereditarie. Ci spiega che cosa sono queste malattie il direttore di genetica medica del Burlo, Paolo Gasparini. Sono una forma di patologie genetiche in cui c'è una progressiva perdita della vista fino ad arrivare alla cecità. E quali sono le cure? Le cure oggi più innovative sono la terapia genica, cioè la possibilità di sostituire il gene che non funziona e con il gene funzionante. E questo lo si fa attraverso un intervento chirurgico a livello della retina e inserendo il gene che funziona. Poco per volta le persone recuperano la capacità visiva e ritornano a una vita con luce. E lo si fa anche con i bambini? Dipende sempre dalla condizione del bambino, quindi dall'età e dalla gravità della perdita visiva. Come le dicevo, sono perdite visive progressive, quindi si interviene spesso quando la progressione si accelera nel tempo. E sono interventi che fate anche a Trieste? No, questi non sono interventi che facciamo a Trieste, sono interventi che vengono fatti nel caso specifico all'Università di Napoli dalla professoressa Simonelli, però noi abbiamo un legame con la professoressa e con il suo team e quindi quando troviamo dei pazienti che sono idonei a questo tipo di interventi li mandiamo a Napoli. La legge 104 è uno strumento importante per la gestione familiare di chi ha un parente malato e bisognoso di cure, una legge che è stata aggiornata recentemente e alla quale si aggiungerà anche la legge 106 per i malati oncologici. Sentiamo. Permessi, congedi, necessità di assistenza. La popolazione invecchia e sempre più persone ricorrono a questi strumenti per assistere familiari anziani o prendersi cura della propria disabilità. Il governo ha aggiornato da poco la legge 104, mentre a gennaio entra in vigore la 106 per i malati oncologici, rendendo più ampio il quadro d'azione. La professoressa Valeria Filì, docente di diritto del lavoro all'Università di Udine. Questi strumenti legislativi introdotti recentemente ci fanno proprio capire come ci sia una sensibilità diversa, più aperta, più inclusiva, in una logica di estendere la nozione di disabilità per ricomprendere più soggetti possibili. Sullo sfondo, la necessità di far ricadere sempre meno la disabilità nella sfera del welfare e di includerla fin dove si può nel mondo del lavoro. Non si può pensare che queste persone in qualche modo siano soltanto fruitori di benefici erogati dal welfare. Quindi c'è un problema di nuova sensibilità, ma anche di sostenibilità del nostro welfare state. A questo si affianca anche una nozione di disabilità più ampia che considera il contesto anche lavorativo. Se questo si dimostra inclusivo, ad esempio se c'è una rampa apposita per chi ha problemi di deambulazione, la compromissione di chi ha una disabilità diventa meno rilevante. In questo senso agiscono anche i permessi e i congedi, anche per i caregiver. Una serie di tutele che sono però un po' farraginose, un po' spalmate in varie norme, a volte con tutela economica, congedi e permessi coperti da tutela economica, che vuol dire un'indennità e vuol dire anche una contribuzione figurativa, a carico quindi del welfare, altre volte senza tutela economica. A svolgere l'assistenza per i familiari però sono molto spesso donne, a volte a discapito della propria attività lavorativa e lasciando buchi nella storia professionale. Il legislatore su questo dovrebbe aumentare l'attenzione e intraprendere una serie di azioni che possano per esempio riconoscere questi periodi di non lavoro retribuito, magari con delle certificazioni, oppure prevedere dei corsi di formazione poi per il reinserimento lavorativo, o degli incentivi, per esempio, sarebbe auspicabile ai datori di lavoro che vogliano assumere queste persone. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lutto nel mondo dell'automobilismo. È morto all'età di 84 anni a Milano Andrea De Adamic, ex pilota di Formula 1, il triestino che aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962, ha avuto una carriera ricca di successi. Dopo il titolo italiano di Formula 3 fu ingaggiato dall'Alfa Romeo, con cui vinse due campionati europeo turismo a bordo della Giulia GTA, e poi l'esperienza in Formula 1, disputò 5 stagioni a partire dal 1968 correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren e Surtees. Dopo il ritiro dalle corse nel 1974 aveva iniziato una carriera da commentatore TV, diventando telecronista dei Gran Premi di Formula 1 per il gruppo Fininvest. Questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto in studio da Eva Ciuc e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.